Bentornati, benvenuti a Dedicato! Siamo qui anche questa settimana. Ah, e questa settimana è una settimana colorata, una settimana profumata, è una settimana che sa di fiori. Perché? Perché andiamo nella città dei fiori, che è Sanremo, e come ogni anno Dedicato dedica una puntata al Festival di Sanremo, che è il festival più odiato e amato dalla nostra nazione. Chi ne parla malissimo, chi ne parla benissimo, chi non vuole parlarne proprio, e comunque è il nostro festival della canzone italiana. Perché ne parliamo? Non perché vogliamo divulgare assolutamente le musiche o le classifiche o tutti i concetti, diciamo così, del festival, non diciamolo come, commerciali, ecco. No, non ci interessa questo, ci interessa però, visto che il 99% dello staff di Dedicato lavora con la musica, siamo musicisti, ve ne dovete fare una ragione, di conseguenza noi vogliamo affrontare il tema Festival di Sanremo, perché non è un tema da nascondere, non è un tema da evitare in nessun modo, ma allo stesso tempo c'è da dire che di musica in Italia ne abbiamo ben di più rispetto a quella del festival, quindi abbiamo da dire la nostra in un certo modo. Un paio d'anni fa Dedicato ha affrontato questa puntata dedicandola a Freak Anthony, e ci piace riproporre un pochino questa cosa, proprio perché il nostro amato Freak cercò di partecipare al Festival di Sanremo e ci teneva anche, devo dire, perché poi io quando ne ho parlato con lui un po' di anni fa è stata una discussione veramente molto buffa, perché lui diceva: oh, ma io ci tenevo a partecipare al Festival di Sanremo, ma mi hanno sbattuto le porte in faccia, le ho provate tutte, mi sono anche affiancato a Luca Carboni, mi hanno detto cerca un artista famoso, io ho chiesto a Luca Carboni, abbiamo fatto una canzone insieme, ci abbiamo provato, ci hanno detto no, proprio non mi volevano, e quindi abbiamo riso, sorriso assieme anche un po' maramente di questa cosa, perché che Freak Anthony sia stato scartato dal Festival di Sanremo, scusate, ma il mio modesto parere è proprio no, avete sbagliato tutto, non ci avete capito niente, avrebbe portato un valore aggiunto al festival che forse nessuno o pochissimi altri artisti negli anni hanno potuto portare. Quindi è stato un grave errore quello di dire no al nostro Freak Anthony, e noi quindi intanto partiamo ascoltandoci un bel pezzo degli Schiantos. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Non posso farci niente. Mi piacciono le sbarbine. Mi sento deficiente. Yeah, yeah, yeah. Lo so che non conviene. Mi piacciono le sbarbine. Ma poi chi si trattiene? Mi piacciono le sbarbine. Quelle hot 1,80 m. Yeah, yeah, yeah. Quelle basse 1,50 m. Mi piacciono le sbarbine. Non esiste divisione. Conta il calore. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante. Le sbarbine in amore. Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yeah. Anche se mi fanno soffrire. Mi piacciono le sbarbine. Non c'ho mai niente da dire. Mi piacciono le sbarbine. Quel che voglio è solo amore. Tipo senza storia. Mi piacciono le sbarbine. Ma un fregato la memoria. Mi piacciono le sbarbine. Ma l'amore di una sbarba. Yeah, yeah, yeah. Mi fa andare giù di testa. Mi piacciono le sbarbine. Le sbarbine sono bionde. Le sbarbine sono amore. Le sbarbine sono tante. Le sbarbine in amore. Le sbarbine sono carine. Con i tacchi. Mi piacciono le sbarbine. Che mi mandano nei matti. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Yeah, yeah, yes. Lo so che non conviene. No, no, no. Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine. Io voglio starci assieme. Mi piacciono le sbarbine.

l'orchestra, a parte poi i cantanti e chi verrà a partecipare, l'orchestra è composta da tutti i grandi musicisti che io seguo in realtà e apprezzo. Tu cosa ne pensi di Sanremo? Bah, devo dire, Sanremo sicuramente non è un contest musicale molto, molto serio, però devo dire che c'è divertimento nel guardarlo. In realtà alcune volte arrivano anche persone che sono interessanti da sentire. Per esempio, 2 anni fa, se non sbaglio, venne Lazza. Lazza è stato abbastanza bravo. Ok, grazie. Ti piace Sanremo? Sì, lo guardo ogni volta che c'è e so cosa succede, è bellissimo. Cosa ti piace di Sanremo? I cantanti, la musica, le voci. Ah, ok, quindi tu ogni anno hai tipo un vincitore che speri che sia lui a vincere? Sì. Ah, va bene, bene, ok. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato anche un altro po' dei nostri fanciulli più o meno grandi sul Festival di Sanremo, cioè lo conosco, non lo conosco, mi piace, non mi piace, ci è piaciuto chiederglielo perché appunto è importante anche il punto di vista dei nostri giovanissimi, magari al Festival non gliene frega niente, ma noi come al solito diamo la parola ai nostri giovani e ne abbiamo parlato tanto del Festival di Sanremo perché i più grandi hanno iniziato a fare dei ragionamenti che ci stanno, cioè sì, ok, per un musicista è interessante sapere quali sono le evoluzioni del grande mercato musicale e di come si comprano i pezzi musicali, no? Perché è un po' quello, è un mercato quello della musica che va a Sanremo, però hanno iniziato anche a dire forse ci interessa anche qualcos'altro. Qualcos'altro rispetto a tutto quel mercato, non solo Sanremo, attenzione, quindi tutto ciò che è la musica commerciale. E allora abbiamo iniziato a guardarci intorno, abbiamo iniziato a scoprire insieme a loro e a fargli delle proposte di vecchi gruppi che possono essere dal punk rock all'hip hop e commerciali o meno, perché poi alcuni gruppi sono nati magari nei sottofondi delle città e poi sì, sono diventati più o meno famosi sia in Italia che all'estero, no? Cioè raccontargli un po' com'era la musica negli anni 60, 70, 80, 90, fin lì ci siamo arrivati, e di come quel mercato andasse a coprire solo una minima parte della musica. Oggi i giovani mi hanno fatto una domanda, è una domanda che, ragazzi, non è facile, e cioè tutta quella roba meravigliosa che avevate voi underground, cioè proprio dal basso, nei vostri anni, oggi dov'è? Cioè chi c'è di noi giovani che porta avanti dei discorsi così? E allora lì è partita la discussione su Sanremo, sui giovani che invece frequentano le sale prove oggi e che vogliono creare qualcosa di nuovo, dei percorsi diversi, con messaggi importanti, e abbiamo scoperto che effettivamente già di fianco a noi, proprio parte del nostro staff, è un gruppo di questo tipo, sono i The Aster, che stanno iniziando a scrivere con passione e dedizione i loro pensieri, la loro musica, quindi stanno iniziando a tirar fuori dei contenuti anche molto interessanti, e come loro ce ne saranno tantissimi. Quindi questi tantissimi gruppi speriamo di vederli prestissimo sui palcoscenici della nostra regione, della nostra Italia, e che tirino fuori quei contenuti che ci piacciono, ma non solo a noi grandi, ma a tutti i ragazzi che appunto cercano, vanno a cercare la musica con contenuti. Il nostro Fabrizio De André, il nostro Gaber, quando eravamo giovani noi, erano esempio per chi li ascoltava, erano importanti, erano momenti veramente interessanti di crescita, non solo musicale, ma proprio di pensiero e di aggregazione. Lo stesso Freak Anthony ai concerti degli Schiantos era uno sballo andarci per veramente qualunque cosa loro dicessero dal palco, sia musicalmente sia di concetti. Quindi auguriamo a tutti questi nuovi gruppi di esplodere da un momento all'altro e di entrare nelle nostre vite. Io adesso vi saluto perché questa settimana del Festival di Sanremo per noi si conclude con questa puntata e ci risentiamo sempre mercoledì prossimo alle 13 su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! A chi non ho incontrato, chissà mai perché hai dimenticati, a Playboy finiti e anche per me.